Un grazie anche a ognuno di voi che è qui, a quanti sono a casa, che stanno guardando in rete, a quanti lo guarderanno, ma grazie a voi in modo particolare, perché avete preferito, vincere il desiderio di andare a prendere l'ultimo aperitivo prima del lockdown ed essere qui questa mattina per vivere insieme questo incontro alla gloria di Dio. Questo messaggio che andremo a condividere questa mattina è un po' la continua di quello che abbiamo condiviso un mese fa, ecco, dove vi ho descritto quello che è stato il mio esodo emotivo a causa dell'infortunio sul lavoro avuto. Se lo ricordate ancora bene, se non lo ricordate, non l'avete ascoltato quel messaggio, andate in internet a rimediare. Ma questo di questa mattina vuole mettere a fuoco un episodio che abbiamo guardato in quella domenica, cioè quell'episodio che è occorso ai discepoli quando si sono trovati nella barca e poi è venuta la tempesta e poi Gesù dormiva, ed è meglio che lo leggiamo. Marco capitolo 4, il versetto 35. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. E c'erano anche delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi, cioè i discepoli, lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Ora, c'è da dire che un po' ci sentiamo anche noi in mezzo a una bufera, in mezzo a una tempesta. Appena vediamo uno spiraglio di luce, subito c'è una variante che ci cade addosso e scombina tutti i piani e ci rimette di nuovo tutto in discussione. E quella speranza che avevamo di ritornare alla normalità se ne va a gambe all'aria e dobbiamo iniziare di nuovo a fare tutta una serie di riflessioni sul di chi è la colpa. E questo a livello generale. Poi a livello personale ci sono le difficoltà che ognuno di noi ha, difficoltà al lavoro per qualcuno già da tempo e per qualcuno da lunedì, difficoltà nella famiglia, difficoltà di salute. E ognuno è consapevole delle tempeste che più o meno sta vivendo. Ma quello che dobbiamo considerare è che questa serie di tempeste non fanno altro che creare delle buone, ottime occasioni per confidare seriamente in Gesù. Perché se noi non abbiamo, ci va tutto bene e non abbiamo bisogno di Lui, diventa un po' superfluo, tanto ce la sappiamo vedere noi, ma se siamo in mezzo a delle tempeste, se siamo in difficoltà, allora abbiamo bisogno di soluzioni e tutte queste difficoltà ci mettono nella condizione di poter seriamente, in modo cosciente, consapevole, iniziare a confidare in Gesù. Torniamo un momento sulla barca. A questo punto, diciamo circa dopo un anno dell'inizio del ministero di Gesù, aveva già fatto diversi miracoli Gesù, da quello di Canaan, dove ha cambiato l'acqua in vino, la pesca miracolosa dove ha chiamato i discepoli, ha guarito il paralitico portato dal lettuccio dai quattro amici, ha guarito la suocera di Pietro, insomma il muto cieco, non mi ricordo, di Betesda. Però aveva fatto, cioè si era dato da fare, quindi i discepoli avevano visto che Gesù non era il figlio di Dio solo a parole, ma c'era anche sostanza, c'era anche capacità di risolvere le situazioni difficili. Però quando si sono trovati in quella barca, dove si è alzato il vento, il mare, il lago ha iniziato ad agitarsi, le onde hanno iniziato a riempire la barca di acqua, i discepoli, che erano pescatori, quindi erano abbastanza allenati a questo fatto, però sono andati in tilt. E non lo so io se sono andati in tilt per l'acqua che entrava o perché vedevano Gesù che dormiva. Insomma, o per un motivo o per l'altro sono andati in tilt e hanno svegliato Gesù. Io credo che lo abbiano svegliato anche abbastanza bruscamente e gli hanno detto: maestro, ma non ti importa che noi moriamo? E a me già da tempo è venuta una domanda: cosa avrei fatto io al posto dei discepoli? Cosa avrei fatto in quella situazione al posto loro? Vedete, quella che sto facendo non è retorica, perché i discepoli stavano parlando con Gesù. Noi ogni giorno quando preghiamo parliamo con Gesù. Quindi è importante che ci rendiamo conto, quando parliamo con Gesù, di che cosa diciamo. Se assomigliamo ai discepoli o siamo peggio o meglio, possiamo dire diversamente la domanda: a chi assomigliamo quando preghiamo? E in quella situazione come ci saremmo comportati noi? Non è tanto difficile scoprire come ci saremmo comportati. Basta, per me ho fatto questo esercizio, basta dare il significato personale alle parole che i discepoli hanno detto. Gesù, non ti importa che noi moriamo? Ognuno di noi ha la sua opinione su che cosa c'era dietro queste parole. Io per me stesso ho riflettuto, ho avuto il tempo di farlo, e dietro quelle parole per me c'era il fatto che i discepoli o io avrei detto a Gesù: Gesù, se non lo vuoi fare il miracolo, non lo fare, però almeno non dormire, dai una mano a togliere l'acqua dalla barca. Qualcosa gli avrei detto. E per me era quello il senso di quelle parole. E noi, se siamo onesti, possiamo scoprire realmente dove ci posizioniamo, in quale prospettiva vediamo e viviamo questa situazione. E quello che noi pensiamo di questo, quello che noi diciamo di questo, mette alla luce quelle che sono le nostre paure e quella che è la nostra fede. Infatti Gesù l'ha sottolineato questo fatto. Prima ha messo a posto il mare, ha fatto calmare il vento, si è messo tutto a posto. Poi, quando si è risolta la situazione, ha chiesto lui ai discepoli, gli ha detto: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Quindi confrontarci con questa situazione mette a nudo per noi stessi quali sono le nostre paure e qual è la qualità della nostra fede. Dopo di questa mi è venuta un'altra domanda. Visto che a Gesù non gli è piaciuto quello che i discepoli hanno detto, non ti importa che noi moriamo, cioè è rimasto male, si è messo di cattivo umore. Già uno quando si sveglia, io conosco persone che sono a prescindere di cattivo umore quando si svegliano, ma quelle parole a Gesù gli hanno fatto venire un po' di susta, ecco, non è che gli è piaciuto. Allora, che cosa avrebbero dovuto dire i discepoli? O noi? Che cosa dobbiamo dire a Gesù quando preghiamo per fare in modo da risultare ben accetti, per non metterlo di cattivo umore? Siamo d'accordo a svegliare Gesù? Siamo d'accordo a svegliare Gesù perché magari la scusa buona è quella di dire: Gesù, svegliati, vedi che sta arrivando l'acqua, se no ti bagni. Quindi la scusa buona ce l'abbiamo, quindi pregare va sempre bene. Ma dobbiamo stare attenti e valutare bene a cosa diciamo. Da questa storia impariamo subito, immediatamente, che non dobbiamo mai iniziare una preghiera dicendo: Gesù, ma non ti importa, perché questo non gli piace. E non dobbiamo nemmeno dire cose che ribaltano su di lui la responsabilità di quello che sta succedendo, o lo fanno apparire disattento o distratto a quello che sta succedendo, perché non gli piace. E non promuove neanche una soluzione, anche se Gesù la soluzione l'ha data lo stesso in quell'occasione, ha calmato sia il mare e il vento. Ma noi che cosa dobbiamo dire? È importante che lo pensiamo. Non lo so voi se capita di ascoltare mentre voi pregate, che noi siamo bravi ad ascoltare quando gli altri pregano. Ma è buono che ci iniziamo ad ascoltare e a vedere che cosa diciamo. Forse non sarebbe male scriverle o registrarle le preghiere per andarle a risentire, perché io ho scoperto per me stesso che non faccio sempre una bella figura quando prego. Ma allora che cosa gli dobbiamo dire al Signore? Sono stato a pensare e ho pensato e non sono arrivato a niente, e questo è positivo. È positivo che non sono arrivata a niente, perché quello che penso io ha altrettanto valore come quello che pensa ognuno di voi. E se io vi condividessi quello che penso e quello che credo, sarebbe discutibile e potrebbe essere valido come quello che ognuno di noi dice. Ma quello che io voglio che andiamo a vedere è quello che la parola di Dio dice. E ci sono diverse preghiere che sono state fatte, che non soltanto hanno onorato Gesù, ma hanno promosso anche una soluzione positiva e hanno messo Gesù di buon umore. Ora, i miracoli che vi ho descritto prima erano tutti miracoli che erano successi e che i discepoli avevano visto, avevano vissuto, e tra quelli c'era il primo miracolo, cioè le nozze di Cana. Le nozze di Cana è una festa di matrimonio, e io vi dico onestamente che io non l'avrei fatto quel miracolo per dei motivi che vi spiego. Cioè, se tu fai un matrimonio e a un certo punto manca il vino, è un po' come se tu fai un matrimonio e non fai la frutta di mare, va bene. Però se viene a mancare il vino, due sono le cose: o gli sposi hanno fatto male i conti, o la gente si sta facendo a ciuccio. Non può essere diverso. E che fai? Tu vai a fare pure un miracolo. Però è successo questo. Giovanni, capitolo 2, versetto 3. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù gli disse: che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Cioè, non è che si è messa bene questa... Cioè, Gesù era un po' permaloso. Dobbiamo stare veramente attenti quando preghiamo. In altre parole ha detto: vabbè, è finito il vino, è da me che vuoi. Questo è quello che stava succedendo. Quindi non è iniziata bene questa relazione. Ma poi è successo qualcosa che ha cambiato e ha innescato un processo positivo. Ha innescato di poter liberare la grazia e la potenza di Gesù in quella situazione. E sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che egli vi dirà. E forse i discepoli, quando hanno svegliato Gesù, potevano dirgli: Gesù, vedi che si è agitato un poco, la barca sta anche riempiendosi di acqua, secondo te che dobbiamo fare? sarebbe stato un modo diverso di pregare. Gesù avrebbe lo stesso fatto il miracolo, ma sarebbe rimasto di buon umore. Ora, è importante che noi, quando preghiamo, non diciamo a Gesù quello che lui deve fare, o lo accusiamo di non ti importa che noi stiamo morendo, ma che forse gli diciamo, Signore, in questa situazione, che è brutta, che non mi piace, ma che cosa devo fare? Anzi, ancora meglio, tu che cosa dici che io devo fare? Io farò tutto quello che tu mi dici di fare. Questo ci impone in un'altra prospettiva e ci mette nella giusta posizione per poter mettere in libertà la potenza di Dio. Il secondo episodio che voglio guardare con voi è quello della guarigione del servo del centurione. C'era questo centurione, un soldato, un capitano dell'esercito romano, che era lì in dislocamento, quindi era visto da alcuni come un nemico, da altri come una brava persona. Comunque, sta di fatto che manda un'ambasciata a Gesù, gli dice: Gesù, vedi che c'è il servo di questo centurione che non sta bene, è una brava persona, merita che tu fai qualche cosa. E quello che succede è scritto in Luca, al capitolo 7, il versetto 6. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Non sono degno e di una parola. Gesù è rimasto sorpreso e ha citato a esempio quel centurione e ha detto: io non ho trovato nessuno che abbia una fede come lui. E io vorrei che noi scavassimo un poco nell'attitudine di questo centurione. Nella sua preghiera non c'era pretesa o arroganza. Dice: non sono degno. Già il fatto che tu stai venendo è già assai. Non c'era pretesa e non c'era arroganza, quella che forse possiamo riscontrare nelle parole: ma non ti importa che noi moriamo? Lì c'è un po' di pretesa e c'è anche un po' di arroganza. E ancora di più, quel centurione non ha chiesto a Gesù di fare qualcosa a dimostrazione che Gesù gli voleva bene. Nelle parole dei discepoli, non ti importa che noi moriamo, tra virgolette, ma tu ci vuoi bene a noi, ci tieni a noi. Mentre il centurione ha un approccio completamente diverso. Non sta chiedendo di fare qualcosa a Gesù come dimostrazione del suo amore. Noi dobbiamo capire bene che Gesù non ha niente da dimostrarci. Quello che aveva da dimostrarci lo ha fatto già sulla croce. E non può fare nulla di più. Ha dato la sua vita, ha dato tutto se stesso. E io non credo che ci rimane bene quando le nostre preghiere, in maniera velata o meno, chiedono a Gesù: Gesù, ma tu mi vuoi bene? Io chiedo a mia moglie: ma tu mi vuoi bene? E questo è buono. E mi aspetto che lei mi dica sì, e io dico: anche io ti voglio bene. E lo facciamo almeno un paio di volte al giorno. Ed è buono, ma con Gesù no, con Gesù no. Gesù lo dobbiamo sapere che ci vuole bene, perché vediamo il suo sacrificio sulla croce. Il centurione né è stato, né ha avuto pretese, né ha avuto arroganza, né voleva che Gesù gli dimostrasse qualcosa. Un po' come le parole: il Signore è il mio pastore, perciò nulla mi manca. Il Signore, il mio pastore, non ha niente da dimostrarmi, nulla mi manca. È sulla stessa lunghezza d'onda. E questo è un altro modo che la Bibbia ci mostra per poter pregare, per poter rivolgerci a Lui, per svegliarlo e farlo rimanere di buon umore. L'ultimo esempio che voglio guardare assieme a voi è un esempio che è venuto un paio d'anni dopo. Dopo la risurrezione, dopo la discesa dello Spirito Santo, troviamo Pietro e Giovanni, cioè due apostoli che stavano sulla barca. Quello che era successo è che erano stati arrestati e avevano trascorso la notte in prigione. Perché? Perché avevano annunziato l'Evangelo e avevano guarito uno zoppo nel nome di Gesù. Questo fatto non gli era piaciuto ai farisei e li avevano fatti arrestare, li avevano messi in prigione. Il giorno dopo li hanno chiamati, hanno detto: voi non lo dovete fare più, altrimenti vi facciamo passare i guai. Ora, detto così, ha un peso, ma se noi riflettiamo un attimo e ci ricordiamo che quelle persone che stavano parlando ai discepoli erano le stesse persone che avevano fatto crocifiggere Gesù, ci rendiamo conto che quelle minacce non erano giusto per, e non erano da prendere tanto alla leggera. Era qualcosa di pesante che poteva incutere veramente timore, paura. Fatto sta che li hanno rilasciati sulla parola. Vabbè, per questa volta, però non lo fate più. E i discepoli sono ritornati nella chiesa e hanno fatto un incontro di preghiera. In Atti, al capitolo 4, 29, noi leggiamo di quella preghiera che hanno fatto. Adesso, Signore, considera le loro minacce, quindi le avevano prese seriamente, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Che preghiera hanno fatto? Una preghiera per avere la forza, per avere la franchezza di rifare proprio tutto quello per cui erano stati arrestati, annunciare l'Evangelo e guarire, operare miracoli. Non c'è stata nessuna richiesta di soccorso personale. Quei due discepoli che nella barca, tutti d'accordo, hanno detto: non ti importa che noi moriamo? Adesso non importava più nemmeno a loro di morire. Quello che a loro importava era di portare a effetto la volontà di Dio. Era di fare in modo che la volontà di Dio fosse fatta sulla terra esattamente come era fatto nel cielo. E il risultato? Sono stati riempiti di Spirito Santo. La potenza di Dio non si è manifestata per loro, ma si è manifestata attraverso di loro. Avevano imparato la lezione. Dopo un paio d'anni avevano imparato la lezione. Ora, quando Walter e Gabriele erano piccolini, 10, 11 anni, avevamo la PlayStation a casa nostra. Forse molti sanno di cosa sto parlando, molto meglio di me che lo sto parlando. E alla PlayStation io con i miei figli non ho mai vinto una partita. Mai. A qualsiasi gioco giocavamo non ho mai vinto una partita. Se vincevo è perché mi facevano vincere, e questo mi faceva arrabbiare ancora di più. Però fatto sta che c'era un gioco che mi piaceva perché ero bravo, giocavo da solo, quindi ero bravo, ed era il gioco di Super Mario, quello, sai, che esce dai tubi, che salta, che fa, ed era simpatico come gioco. Era un gioco che, man mano che finivi un quadro, se ne apriva un altro con una difficoltà leggermente superiore. So più o meno tutti così. E quello che ho scoperto è che arrivavo al terzo, quarto quadro e non andavo più avanti. Lì mi fermavo. Non riuscivo più a vincere una partita. l'ho abbandonato la PlayStation. E quando mi dice, papà, vuoi giocare? No, non c'ho da fare. Invece non volevo fare brutta figura. Però l'avevo abbandonata, era qualcosa che mi faceva sentire umiliato, quindi non mi piaceva più. Io vorrei che noi leggessimo assieme quello che è scritto in 1 Samuele, al capitolo 17, il versetto 37. In effetti sono dei versi che dobbiamo sapere a memoria, perché un po' di tempo fa il pastore ce li ha fatti imparare a memoria. E dicono, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo, riferita a Golia. Ora, rileggeteli attentamente. Il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Non vi sembrano un po' i quadri di Super Mario? Che passano da un livello a un altro, dall'orso al leone, dal leone alla zampa del filisteo. Per questo è importante che noi impariamo a uscire vincitori dalle tempeste. I discepoli sono usciti da quella tempesta, ma non sono usciti vincitori. Li ha tirati fuori Gesù. Loro non hanno vinto un bel niente. Ma il centurione sì, ma Giovanni e Pietro sì, sono usciti vincitori. È quello che noi dobbiamo capire quando viviamo le tempeste, quando viviamo le difficoltà, che è una buona occasione che Dio ci sta dando per chiudere un quadro e per aprirne un altro. Perché per ognuno di noi ha un Golia che dobbiamo abbattere. E quando succede che noi non riusciamo a vincere, come me al Super Mario, e rimaniamo sempre nello stesso quadro, succede proprio la stessa cosa, che iniziamo ad annoiarci, che inizia a non piacerci più il gioco, e rinunziamo. E sapete, quando noi rinunciamo ad affrontare la tempesta, diventiamo i credenti della domenica. Diventiamo i credenti delle belle occasioni. Diventiamo i credenti che guardano indietro, ma che non hanno più un obiettivo avanti. Davide ha detto, mi libererà dalla mano di quel filisteo. Quando noi ci ritroviamo a pensare indietro e guardando avanti non vediamo un granché, dobbiamo iniziare a chiederci, abbiamo vinto quei quadri, quelle tempeste in cui ci siamo trovati? Voglio leggervi una promessa che è per tutti noi, a cui dobbiamo credere e che dobbiamo fare nostra. È letta in Filippesi, al capitolo 1, il versetto 6. È Paolo che scrive ai Filippesi e dice, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Colui che ha cominciato un'opera buona la porterà a compimento. Ora, può darsi che stai lottando da tanto tempo in una tempesta e non ne riesci a venire a capo. Io ho questa fiducia in te, che chi ha cominciato un'opera buona in te la porterà a termine. E desidero che tu abbia la stessa fiducia in me. Dice, vabbè, la fiducia tu, sai che me ne faccio? Forse. Ma anche Gesù ha fiducia in te. E non lo ha detto in questa occasione, perché l'ha detto già sulla croce. Ha detto già sulla croce, io ho fiducia in te. E sono disposto a morire per te, perché l'opera che inizio in te, io sono fedele da portarla a compimento. E qui il Signore ci sta chiedendo di essere fiduciosi l'uno nell'altro, di fare alleanza, di stare assieme per spingere l'un l'altro a superare quella tempesta, a uscirne vincitori e a essere pronti ad affrontare la prossima, per essere quei servi fedeli, quella Chiesa perfetta e senza ruga che Gesù sta aspettando. Vogliamo pregare assieme? Volete alzarvi in piedi per piacere? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu hai fiducia in me. E anche se ci sono state, o ci sono, o ci saranno delle tempeste che non riuscirò a vincere velocemente o come vorrei, io ho fiducia in te, Gesù, che tu sei capace di calmare il vento e calmare le acque al di là di quanto io sono in gamba. E ti prego per me, ti prego per noi, Signore Gesù, che possiamo scoprire, ascoltare il tuo suggerimento, prendere dalla tua parola il modo migliore per svegliarti, richiamare la tua attenzione e poi pregarti in modo da onorare il tuo nome, in modo da darti la lode e la gloria che ti spetta, in modo da liberare la tua potenza affinché la tua volontà sia fatta in mezzo a noi, qui sulla terra, come è fatta nel cielo. Grazie Gesù. Amen.